Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Buongiornissimo, oggi è una puntata molto pimpante, abbiamo un ospite importantissimo, poi vi dirò di chi si tratta. Parleremo di discografia, parleremo di musica, di album, parleremo anche di Ollus, di un'associazione benemerita perché insomma si occupa dei bambini, di persone disabili, di persone anziane con un metodo totalmente nuovo, la clown terapia. Poi capirete di cosa sto parlando e ne parleremo se è possibile rintracciarla, perché stamattina insomma i telefoni hanno fatto un po' di bizza, ma sicuramente sarà con noi. Parleremo con la dottoressa Flora Fasso di questa Ollus e di come è nata l'idea di fare terapia con il clown, la clown terapia. Oltre alla pet terapia ci sono diversi tipi di approcci, ma questa è particolarmente efficace perché si rivolge ai bambini, agli anziani e soprattutto alle persone che sono ricoverate in ospedale in reparti e con patologie piuttosto pesanti come i reparti oncologici, insomma per chi ha dei tumori, soprattutto per i bambini, ed è un argomento molto delicato. Abbiamo uno spezzone della conferenza stampa che ieri sera il conduttore di Sanremo, dell'ennesimo festival di Sanremo, ha rilasciato ai microfoni dei vari network nazionali ma anche locali, e tra questi anche noi, e quindi capiremo come si presenterà la prima serata del Sanremo, come sarà articolata, chi saranno gli ospiti d'onore. Insomma, cercheremo di capire tramite la voce di questo grande maestro della musica leggera italiana, ormai da circa 40 anni sulla cresta dell'onda, non è mai sparito come una meteora, perché appunto è un serio professionista, un bravissimo cantante, Gianni Morandi. Stiamo parlando di questo ragazzo prodigio, insomma giovanissimo, ha iniziato la sua carriera come tra l'altro Massimo Ranieri e tantissimi altri della sua generazione. Quest'anno gli è toccata a lui di gestire queste 3 o 5 giorni di Sanremo, ancora non si sa bene, ma comunque è una kermesse che viene ascoltata in tutto il mondo, perché gli italiani sono in tutto il mondo, ma non soltanto gli italiani, anche all'estero ci invidiano questa kermesse musicale di levatura internazionale. E poi vi parlavo di un ospite d'eccezione, più che un ospite, un intero gruppo che ha siglato e ha messo veramente un imprimatur sul foglio di quasi 35-40 anni di musica in Italia. Vi sto parlando dei Mattia Bazar, e tra poco avremo in diretta radiofonica uno dei componenti dei Mattia Bazar, il batterista, un ragazzo che insomma adesso mi diceva telefonicamente ha 57 anni ed è Giancarlo Golzi, che già saluto ma sentiremo più tardi. Fatta questa premessa, un altro ringraziamento particolare naturalmente perché ci consentono di fare questa trasmissione, di effettuare le telefonate, insomma ci consentono di vivere, perché noi non viviamo, come vi ho sempre detto, di canoni televisivi, ma viviamo di altro, viviamo di budget. Volevo ringraziare gli sponsor in generale, ma in particolare Pronto in Tavola della GECI di Baggisi Salvatore, via Giraci 123. Cosa fa? Vi fa trovare in via Geraci, sui suoi banconi, tutto preparato, i gusti e sapori delle madonie, paste pronte, quindi primi, secondi, terzi, dessert, tutto quello che necessita per un pranzo, una cena o una colazione. Andateci tranquillamente, lo trovate a Castelbuono, appunto in via Geraci 123, Pronto in Tavola, gusti e sapori delle madonie, paste pronte, catering e banqueting, pensate, prodotti tipici locali, cuochi volanti, cucina a domicilio. Per i cuochi volanti vi ho detto più di una volta che non è che vi arrivano con l'elicottero o con un missile, arrivano a casa vostra, si chiamano così, volanti, e portando tutto il necessario per un vostro pranzo o per una vostra cena, da soli o anche per i vostri amici. Non volete scomodarvi più di tanto, benissimo, ci pensa Pronto in Tavola di Baggesi Salvatore. Un altro ringraziamento va all'altro sponsor, sito mobile Artigiani in Castelbuono, via Geraci 21, telefono 0921 676150 o 677520, per informazioni info@sitomobili.it. Perché vi parlo di questa azienda? Perché è un'azienda che non solo ha gli showroom che vi consentono di visitare e quindi scoprire i divani di fabbricazione nazionale, industriale, le camere da letto, le cucine componibili eccetera, ma perché sono dei maestri artigiani, quindi le cucine ve li possono fare sotto i vostri occhi, anche le camere da letto, e arredare i vostri uffici o i vostri negozi qualora ne aveste qualcuno. Detto questo, io mi fermo per una brevissima pausa musicale, al rientro sentiremo ci collegheremo con la Ollus di Napoli per parlare con la dottoressa Passo. A più tardi, non mancate, vi attendo. play the part. You would take my heart. Yes, you. For you, life sure have no ending. I watch as you grow, how hard you so close to me. Pray that you will stay, pray you'll never stray from home. Inside your soul. Bene, siamo di nuovo in diretta radiofonica, grazie per essere rimasti lì con le orecchie insomma tese a CRM, su CRM con carta e penna, questo programma che vediamo ogni giovedì in diretta, in differita invece andiamo in onda domenica verso le 11.30. Vi parlavo di una Ollus, la tua voce Ollus si chiama così, dovremmo avere in diretta radiofonica uno dei responsabili che è il signor Leopaldi, che ringrazio per aver accettato l'invito. Leopaldi, mi sente? Sì, la ringrazio per avermi invitato radiofonicamente per questa intervista. Ero il minimo che potessi fare. Allora, io ho scoperto, avevo sentito parlare di clown terapia, no? L'altra volta girando per le strade di di Palermo, insomma, in un centro commerciale, mi sono incontrato con alcuni vostri collaboratori vestiti da clown che facevano il loro lavoro, dimostrando insomma fattivamente che si impegnano, come giusto che sia. La domanda che le pongo è questa, Leopaldi: intanto, come nasce l'idea di fare della clown terapia? Allora, l'idea nasce dal fatto che in ospedale è un ambiente un po' particolare. Per i bambini non è facile stare in ospedale, fare la propria degenza in ospedale, certo. Se non hanno modo di essere più che altro allietati ed animati da altri operatori che non siano né dottori né infermieri, quindi più che altro clown, più che altro sentono l'esigenza di essere animati, di essere più che altro ravvivati dalla loro esperienza ospedaliera, sì. Che non è del tutto vivace. Purtroppo i bambini che stanno in ospedale comunque non la vivono in modo molto sereno. Senta, giusto per riavvivarla. Senta, pronto, mi sente? Pronto? Ah sì, ecco, adesso la stavo sentendo, non la sentivo più, adesso la sento. Senta, ma c'è una, differenziazione, c'è un modo di selezionare il personale che va a fare poi la clown terapia? Avete una metodica? Allora, innanzitutto per essere un clown terapeuta deve essere una persona abbastanza serena, una persona improntata, vivace, una persona sicura. Poi più che altro c'è da seguire un corso, infatti tutti i nostri volontari effettuano un corso che viene fatto una volta all'anno, infatti noi riapriremo il corso, ma noi siamo campani, quindi il corso era fatto sia a Napoli che in provincia di Roma a Colleferro. Parteciperanno alcuni volontari, cioè partecipano innanzitutto i volontari dell'associazione e altre persone che vogliono iscriversi. Senta, nel caso voi siete naturalmente a diffusione nazionale o siete prettamente regionali? No, noi operiamo a livello nazionale. Su tutto il territorio. Quando ci incontrammo a Palermo noi facemmo alcune iniziative con la casa famiglia Regina Elena di Cefalù. Ah, ecco, quindi questo è già un dato di fatto. Nel caso ci siano ragazzi, ragazze, insomma, persone anche adulte, perché no, che volessero affacciarsi nel mondo della clown terapia o entrare a far parte della vostra nomenclatura, come possono fare, a chi devono rivolgersi? Allora, tramite Facebook, noi abbiamo il gruppo su Facebook che basta cercare la tua voce Onlus Clown Terapia. Abbiamo il nostro gruppo, noi saremo presenti a Palermo 4 volte all'anno, basta iscriversi, ci sta il nostro delegato Rosario che si occupa lui più che altro di informare le persone tramite Facebook, ogni volta che ci spostiamo, ogni volta che siamo in Sicilia o in altre località d'Italia. Noi veniamo 4 volte all'anno, possono partecipare chiunque alle nostre manifestazioni, alle nostre iniziative. Senti, prima di lasciarci, intanto io ti ringrazio a titolo personale, ma sicuramente moltissimi genitori e anche familiari di anziani che voi andate ad assistere portando un po' di sorriso a queste persone che già hanno tanta sofferenza. Io in televisione ho assistito all'intervento di alcuni clown con la clown terapia. Ora, rigorosamente in diretta, vi ricordo Carta e Penna, programma gestito in studio da Filippo Glorioso. Alla console c'è sempre lui, un grandissimo, poi ve lo faccio salutare come ho fatto io l'altra puntata scorsa. Allora, Allora è il momento di collegarci con Sanremo, si fa per dire, abbiamo veramente uno spezzone della conferenza stampa tenuta da Gianni Morandi, non c'erano presenti le veline perché impegnate nelle prove dei balletti e di conseguenza non è stato possibile averli presenti, però insomma fa lo stesso. Il grande Gianni Morandi, che quest'anno è il conduttore ufficiale del Festival di Sanremo, vediamo cosa ha detto ai microfoni di tutti i network nazionali e non solo. Come da tradizione, il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Delusione generale per l'assenza, debolmente giustificata, delle due tesissime bellezze che affiancheranno Gianni Morandi sul palco dell'Ariston dal 15 al 19 febbraio. Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis non si sono presentate davanti alla grande platea di giornalisti, fotografi e cameraman, lasciando così la conduzione dell'incontro a Gianni Morandi e alle due iene Luca e Paolo, oltre ai vertici di Rai 1 e del Comune di Sanremo. Io spero che sia un Sanremo fatto di buona musica, di belle canzoni, di canzoni che si possono ricantare negli anni. Spero che sia un Sanremo anche divertente, con una squadra di ragazzi che mi aiutano, che mi sostengono, che mi danno energia, come Belen, come Luca, come Paolo e Elisabetta. Spero che sia un festival che, ricordando i 150 anni dell'Unità d'Italia, riunisca le persone piuttosto che farle arrabbiare. Spero che sia un festival comunque che piace. Un po' ingessati, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, alla vigilia del loro debutto assoluto sulla TV di Stato. Il nostro ruolo e quello che vogliamo fare a Sanremo è sicuramente condurre e quindi presentare i cantanti che faremo insieme alla nostra squadra, insieme a Gianni, Belen e Elisabetta, e quello che invece fa più parte dell'intrattenimento e quindi quello che faremo noi due da soli sarà una delle idee, è quella di omaggiare le grandi coppie comiche. La vera sapere che non è vero che io e Paolo facciamo Sanremo, cioè stiamo facendo tutta una bufala, ma poi non ci saremo, no? Avevamo intuito qualcosa, sì, però sinceramente. Sì, è quella la sorpresa vera è quella, che non lo facciamo. Vediamo, allesti tutto questo. Sì, c'è però. Tutto sta maradama poi. Siamo venuti qua, è uno scherzo delle iene. Non si è sbilanciato più di tanto il direttore artistico Gianmarco Mazzi. È un'edizione, diciamo, ricca, nel senso che è ricco il cast di conduzione, perché sono 5 artisti. È ricca dal punto di vista degli artisti in gara, tra l'altro noi che conosciamo bene le canzoni posso dire che anche le canzoni sono veramente belle. L'assenza di Belen Rodriguez e di Elisabetta Canalis non è andata giù ai tanti inviati in platea, come evidenzia Mariella Venegoni, uno dei più temuti inviati al festival, autorevole firma della stampa. È singolare, anzi ed è significativo che mancando le donne che stanno dentro il festival non ci sia una dirigente, un funzionario, una donna. Un'assessora. Lo trovo riprovevole. Per 5 giorni, dal 15 al 19 febbraio, Sanremo sarà come sempre la capitale della musica italiana e non solo, come sottolineato anche dal sindaco Maurizio Zoccarato. Noi speriamo che vada bene come quello dell'anno scorso, siamo in rinnovo di convenzione, quindi noi ci interessa che vada molto bene. Qui Sanremo, per Promedia Team, Franco Iannone, in collaborazione con Unieuro, www.unieuro.it. Perché Sanremo e Sanremo, siamo di nuovo qui ai microfoni CRM per Radio. Giancarlo Giannoni, grazie per questa intervista raccolta naturalmente e qualche spunto di, come dire, qualche spunto dissonante c'è da parte di qualche collega della stampa che lamenta, però è una donna, ma è normale che sia così, che erano tutti uomini, nessuna rappresentanza femminile, pazienza. Allora, dobbiamo velocizzare la puntata perché abbiamo veramente degli ospiti straordinari tra poco, poi su Sanremo vedremo di ritornarci magari alle prossime puntate. Intanto volevo ringraziare Visione Abbigliamento, Pedreria Soprana, Bivio Madonnuzza, telefono 0921 680202, Gangi, sempre in provincia di Palermo, via Nazionale, sempre lo stesso prefisso, 0921 quindi 689830. Perché vi parlo di Visione Abbigliamento? Perché sono delle firme straordinarie, capi d'abbigliamento veramente caldi per questo periodo di freddo. Andate a comprare i piumini, i cappotti, i tre quarti, ma anche le giacche a vento e i pantaloni, i vestiti, perché hanno delle firme veramente prestigiose, ma sono belli da indossare. indossare e cioè caldi da indossare e belli da vedere. Le firme, beh, insomma, ve ne tengo soltanto qualcuna: Replay, Gaudi, Diesel, Museum e poi Navigare e tantissime altre. Per cui mi raccomando, visitate questi due negozi di abbigliamento: Visione Abbigliamento a Pedreria Soprana, Bivio Madonnuzza, e a Gangi in via Nazionale. Poi arriviamo a Nuovo Showroom Berloni in via Brancati 2 a Cefalù, in provincia di Palermo. Telefono 0921 424370. Arredamenti e progettazione di interni, cucine Berloni complete di elettrodomestici a partire, pensate, da 3.900 euro, 10 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici. Per maggiori dettagli visitate il sito arrediamo.berloni@libero.it. E adesso è il momento clou, il momento bomba, sta per esplodere. Vi facciamo ascoltare in anteprima questo brano, che è l'ultimo tratto dall'ultimo loro lavoro, la loro fatica. Sto parlando dei Mattia Bazar, ma prima di ascoltare la voce di uno dei componenti del gruppo, il batterista di Gelzi, questo è il suo nome, vi faccio ascoltare l'ultimo brano, Gli occhi caldi di Sylvie. Lei è come un angelo, che cosa vuoi più di così? Tutti te lo dicono, che lei per te è giusta, sì. Spiegare come mai, Rientriamo in diretta. Sentite, avete sentito che bellissimo brano, ma d'altronde non poteva essere che così ascoltare Mattia Bazar con questo nuovo sound. Da molti anni ormai veramente hanno cambiato rotta rispetto ai primi successi che hanno avuto dall'inizio della loro carriera. Volevo soltanto darvi alcune note biografiche mentre la regia si appresta a mettersi in contatto con Giancarlo Golzi, che è il batterista, è già in linea. Giancarlo, buongiorno, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi di aver chiamato, è un piacere stare con voi, con i nostri amici che ci stanno ascoltando. No, intanto ti posso assicurare che il piacere è tutto quanto nostro, perché conosciamo bene Mattia Bazar, li seguiamo con tanto affetto, non è plagio quello che ti sto dicendo, perché avete delle stupende canzoni. Stavo dando delle note biografiche su di voi, no? Voi, dunque, nascete artisticamente a Genova nel lontano 75, dico bene? Esatto. Allora, chi è stato l'ideatore di fondare questo? Poi Mattia Bazar, Mattia posso capire che è un nome di persona, ma Bazar da cosa avete tirato fuori? Ma sai, praticamente sono tre entità che si sono messe insieme. C'era un gruppo a Genova che si chiamava Jet, che avevano già partecipato a due festival di Sanremo, sì. Avevano una discreta, insomma, discografia, stavano iniziando ad apparire sulla scena nazionale. Il Museo Rosenbach, che era un gruppo di musica progressiva al quale facevo parte io, sì. Il quale io parte ero batterista, e Antonella Ruggero, che era una ragazza che frequentava nelle nostre sale prova che avevamo a Genova. Da lì l'idea di metterci insieme e formare un'unica band con il nome Mattia, che era un po' un soprannome in genovese che vuol dire un po' matta, un po' la pazzia. Ah, ecco, non è un nome proprio di persona, Mattia. E Bazar, perché ci venne in mente questo cognome, chiamiamolo così, perché... Ci facevamo tutto da noi. Però Giancarlo vi ha portato tantissima fortuna questo binomio, no? Devo dire di sì, perché poi è un nome che, oltre ad aver attraversato 35 anni di storia... Non mi anticipare le domande. Devo dire che è un nome che rimane attuale, perché non è un nome legato o a un animale o a un qualche cosa come si usava 35 anni fa, ma è un nome che rimane attualissimo ancora oggi, insomma, nella... Questo significato. Senti Giancarlo, mi sembra anche giusto salutare i tuoi colleghi, gli altri componenti del gruppo, sì. No? Quindi Piero Cassano, quindi Aldo Stellita, quindi Carlo Marrale, dico bene, sì, Marrale, Giancarlo Golzi sei tu, e ti ho già salutato, dato il benvenuto, e Antonella Ruggero, questa voce è meravigliosa. Tantissimi successi, no? Moltissimi, due Sanremi vinti, uno al 78 con un brano, insomma, molto bello, devo dire, e l'altro l'avete vinto nel 2002. Senti, ma a un certo punto nella vostra storia musicale voi cambiate sound, come mai? Ma sai, è un po' una caratteristica di Mattia Bazar, quella di andare alla ricerca sempre di nuove sonorità, non addormentarsi mai sugli allori, sui risultati raggiunti, con grande ansia da parte della casa discografica, perché noi siamo arrivati alla ribalta con il successo, con canzoni di Easy Listening, come Solo Tu, Stasera che sera, Prima l'amore, poi abbiamo dato una svolta, siamo andati in un pop rock come C'è avuto un mondo, sì, intorno, sì. E poi di nuovo abbiamo cambiato, ci siamo buttati sulla tecnologia con canzoni come Vacanze Romane, poi siamo passati a una sonorità più disco con Ti Sento. Ecco, ascolta un attimo Giancarlo, a proposito di Ti Sento, di questa altra bellissima canzone come Vacanze, insomma tutti i vostri testi sono testi molto belli, poi orecchiabili. Due domande, la prima: secondo te i nuovi cantanti, gli emergenti, chiamiamoli così, anche a te succede il fatto che non riesci a memorizzare le canzoni di oggi più? Come mai? Ma assolutamente sì, che questo è un po' una pecca, sai perché? Perché mancano gli autori delle canzoni. La nostra forza è sempre stata quella di avere all'interno gli autori di quelli che scrivevano le canzoni. Se pensi che Piero Cassano, che è l'autore ancora oggi di Mattia, ha scritto più di 100 canzoni per Eros Ramazzotti, ha prodotto album di Nina, ha prodotto Demi Rousseau, Mireille Mathieu, grandi artisti internazionali. Questa è la forza che ci contraddistingue, e devo dire che a oggi manca un po' questa capacità da parte dei giovani autori di scrivere delle linee melodiche memorizzabili, perché riguarda che la linea melodica è fondamentale, poi il vestito che tu dai in termini di arrangiamento, quello può essere dettato dall'età del gruppo, dell'artista, ed è giusto che sia fatto, però se si cerca di mascherare solo tutto attraverso le sonorità e manca poi alla base quello che è una linea melodica forte, in grado di catturare, come dicevi giustamente te, la memoria dell'ascoltatore, allora lì diventa difficile, perché si gira intorno solo a delle gag, a delle trovate, ma si tralascia quella che è la parte fondamentale di un artista che va dai Beatles agli U2, ai Pooh, ai Mattia Bazzar, e che sono la capacità di scrivere delle linee melodiche forti, prepotenti, in grado di rimanere nella memoria collettiva. Allora, voi avete, tra le altre cose, oltre ai grandissimi successi, ma non soltanto nazionali, siete stati per molto tempo primi in classifica in Germania, in Francia, in tantissimi paesi europei e non solo. Quindi questo vostro successo vi ha sempre di più spronati a far meglio, non vi siete adagiati sugli allori, voglio dire. Avete un palmarès straordinario di canzoni, la discografia poi è pienissima. Mattia Bazzar, Gran Bazzar, l'oro dei Mattia Bazzar, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ma avete vinto poi nel 2002, dicevi tu prima giustamente, con Messaggio d'amore, se non erro, il Festival Sanremo appunto del 2002, e poi avete il Festival della Canzone Italiana con il brano Grido d'amore nel luglio del 2006 a Venezia. Avete vinto il premio Venice Music Award, giusto? Esatto, giusto. Quindi, mi fa piacere che tu hai sottolineato la nota dell'internazionalità, perché mentre abbiamo dei grandissimi cantanti hanno successo all'estero, come Ramazzotti, come la Pausini, come Paolo Conte, sì, e altri, sono veramente, non ti saprei dire chi altro nei gruppi è riuscito ad arrivare nei primi posti delle classifiche. Ma non è neanche facile, tu mi insegni che le case inglesi o le case americane, le multinazionali, insomma, la fanno da padrona rispetto... Ma sai perché questo? Perché probabilmente quando viene proposto un sound, se tu proponi un sound all'estero che esiste già in una maniera originale, è un po' come la battuta di andare a vendere i frigoriferi agli eschimesi, no? Cioè, all'estero tu puoi vendere quello che è un prodotto del Made in Italy, quello che è un marchio italiano anche nella musica. Se tu ci fai caso, la Pausini e Ramazzotti non propongono degli standard di musica internazionale con canzoni come Madonna o come altri artisti internazionali, ma propongono proprio la linea melodica italiana, arrangiata modernamente, come, con tutto quello che vuoi. E guarda caso, se tu pensi a Ramazzotti, Ramazzotti il successo internazionale l'ha avuto attraverso Piero Cassano. Che ti ripeto, infatti, che uno era uno dei componenti del vostro gruppo. Eh sì, ha scritto per Ero più di 7 album, quindi ha scritto delle canzoni cantate anche da Tina Turner come Cose della Vita. Ma di queste cose sai cos'è che mi rammarica molto? È che i Mattia Bazzar, che hanno avuto successi straordinari, una voce, la voce solista vostra, la cantante vostra, che ha una voce, anche se poi è andata via, poi è rientrata, insomma ci sono stati un po' di movimenti tellurici all'interno, no? Certo. Come spesso succede nelle migliori famiglie, è successo anche da voi. Bravo, ma ecco, ma non è mai finita, vuol dire, la web della creazione di capolavori. Io li chiamo capolavori artistici le vostre canzoni. Vacanze Romane, insomma, la dice lunga, Solo tu, ma poi per citarne soltanto quelle che maggiormente magari si ascoltano, ma avete avuto successi non soltanto nazionali, ma i mass media spesso non ne fanno menzione di questa cosa. Ed è un guaio. Ditele quando fate dei passaggi televisivi, i vostri produttori dovrebbero, insomma, metterla come clausola, cioè, perché io sto apprendendo tramite la vostra biografia che voi avete avuto successi e avete successo a livello internazionale, mentre i mass media e le case discografiche e gli addetti ai lavori non ne parlano assolutamente. Questo è vero, sì, bisogna... è un po' la nostra pecca, ma noi, sai, siamo un gruppo che fa la sua vita. Siete umili. 35 anni, e noi facciamo musica, poi non siamo degli artisti gossipari, siamo genovesi, liguri di origine, siamo un po' chiusi sulla nostra costa, e in questo subentra anche una caratterialità tipica. Tutto è difficile in Liguria, la conquista del territorio, sono tutte prospettive verticali, abbiamo il mare davanti e dietro le montagne, quindi tutto diventa difficile. Pensa noi siciliani quanto ci riesce difficile, indovina un attimino, abbiamo mare da tutte le parti. È una terra meravigliosa, voi avete tutto, dal deserto, le montagne, il mare meraviglioso, veramente avete... Io, sai come chiamo la Sicilia noi quando dobbiamo affrontare la tournée e venire giù in Sicilia? Sì. Diciamo andiamo in Terra Santa. Addirittura. la amiamo talmente che veramente diciamo abbiamo due o tre date da fare interessante. Wow, allora lì si scatena la prenotazione degli alberghi, dei posti, è bellissimo. Beh, senti, io ti ringrazio di questa, anche la tua terra è una terra stupenda. Io ho vissuto per qualche giorno, ahimè, ad Alma di Taggia perché ero corrispondente. Ad Alma di Taggia perché ero corrispondente per il Festival di Sanremo. Partecipai a una trasmissione televisiva satellitare, una televisione regionale. Uh-huh. Allora vivevo a Roma e mi sono trovato. Poi conosco tutta la Riviera Ligure di Ponente e di Levante. Quindi voglio dire, la vostra terra è altrettanto bella, tutta l'Italia è stupenda. Certamente poi ogni regione, è vero, sì. Tu mi insegni. Ogni regione ha la sua bellissima caratteristica. Viviamo in un paese meraviglioso. Senti Giancarlo, volevo citare perché mi piace questa cosa. Voi avete vinto anche un premio molto prestigioso, il premio Personalità Europea nel 2006 al Campidoglio. Vi è stato consegnato questo premio. Ma avete fatto un'operazione ancora più bella, nel senso che avete rivisitato, non so se il termine che io uso è giusto, avete rivisitato tutti i brani dall'Equipe 84, la premiata Follia Marconi, ai Negro Amaro, i Corvi, Subsonica, insomma li avete riarrangiati, ma con la stessa delicatezza, con lo stesso sound li avete fatti riascoltare a chi naturalmente, alle persone che piace questo tipo di musica. Ma sì, questa era un'idea che mi era venuta in mente a me, mi ero domandato, ho detto ma ogni anno ci sono i tributi ai vari cantautori, Battisti e quindi Mina canta Battisti, questo canta l'altro, nessuno aveva mai pensato di ricordare i gruppi, e che i gruppi, se vai a vedere, hanno avuto un ruolo importantissimo, soprattutto dagli anni 60-70, è vero. I gruppi proponevano anche un certo tipo di immagine, oggi fa sorridere pensare a un orecchino o ai pantaloni sfrangiati, ma credimi che 30 anni fa, 40 anni fa, veramente, quindi sono stati importanti sia per quanto concerne un messaggio di grande comunicazione musicale, ma soprattutto anche per un grande messaggio di costume, di linguaggio. E quindi ho detto, prendiamo quelli che sono stati i gruppi che hanno lasciato un segno importante. La PFM, insomma. E riproponiamo una storia, un piccolo bignami di quello che è stata la storia dei gruppi italiani. E così abbiamo fatto, sono venuti fuori questi due volumi, di 1, 2, 3, 4 si chiamavano, che è un po' il tempo che dà il batterista al gruppo quando si parte con una canzone. Non so, beh, conti. Tu sei batterista, quindi meglio di te. Mi è venuto in mente questo, è stata una cosa molto bella che ci ha gratificato tantissimo. Giancarlo, io continuerei questa intervista all'infinito perché insomma io amo molto i Mattia Bazar, le vostre canzoni, la vostra melodia, il vostro sound. L'augurio che ti faccio è di avere ancora tantissimi successi a livello internazionale, non ho dubbio che questo possa accadere, ma mi faccio anche un augurio di poterci incontrare personalmente io insieme a voi e fare di concerto con la nostra radio, con CRM Piredio, a seguirvi in un tour qua in Sicilia, perché non posso essere io anche l'ideatore di questa cosa, mi auguro che sia così. I tempi, tu sai, scusami se ti interrompo, non sono facili, no? Non sono per nulla facili. Poi ti ho menzionato fuori onda le persone nel mondo della musica che io conosco, con i quali collaboro ogni tanto per delle kermesse, e anche loro si navigano in qualche piccola difficoltà. Ti volevo chiedere prima di salutarci e di darci l'appuntamento per quest'estate, almeno con una serata in Sicilia, perché voglio avere il piacere di avervi qui nella terra, visto che l'amate tanto, appunto da chiamarla santa. Giancarlo, senti una cosa, il cinema insomma fa acqua da tutte le parti perché la cultura è stata depauperata da investimenti, l'ambito musicale so che non va per il meglio, come pensate di arginare questa depressione economica che sta investendo tutto il mondo del lavoro in generale? Senza arginarlo è una parola difficile, diciamo che la cosa migliore che possiamo fare è quella di vedi, in questo mondo di oggigiorno legato a una crisi internazionale, dove io capisco che il nostro mondo è un mondo abbastanza effimero, non ci sarà mai chi non andrà a comprare il pane alla mattina nel panificio, ci sarà sicuramente della gente in meno che andrà a comprare dei dischi, me lo capisco anche perché la musica viene offerta ormai gratuitamente da tutte le parti, in qualsiasi, se entri da un supermercato a uno studio dentistico e senti la musica in sottofondo gratuita che va. Oltretutto le trasmissioni televisive propongono solo quello che è un discorso di gossip, di fare notizia, interessa di più capire che tipo di canottiera ti vai a comprare o di zip ti vai a comprare piuttosto che invece capire, certo, qual è la cultura musicale che un artista fa. allora a questo punto o ti lasci prendere dallo sconforto, oppure, come si parlava con un caro amico, si diceva è meglio seguire, l'unica cosa è seguire la nostra stella polare e continuare a fare quello che sappiamo fare da tanti anni. E poi, se il buon Dio vorrà dare una mano al mondo artistico, e nel senso più ampio, inteso come dicevi giustamente tu, della cinematografia, della musica, del teatro, ci stenderà le sue mani sopra e qualcosa succederà. Certo, così non si può andare avanti, perché vuol dire proseguire in una strada che porterà sicuramente alla morte di questo mondo, ma non solo alla morte sul fatto che ci saranno delle problematiche enormi economiche, ma proprio sul fatto anche che dietro a un disco ci sono tantissime famiglie che lavorano, dalle fabbriche di dischi, degli studi di registrazione, e quindi è un problema. I fonici, i tecnici, insomma, certo. Tante famiglie che vivono di questo lavoro. Senti Giancarlo, io mi devo fermare perché il tempo, tu sai che nei mass media è tiranno. Sì. Vi faccio a tutti quanti voi, anche agli assenti, i tuoi colleghi, tantissimi in bocca al lupo per il vostro futuro, che sia ancora roseo e pieno di tantissime gratificazioni morali oltre che economiche. Spero di avervi presto in Sicilia, di potervi sentire dal vivo e di potervi, come dire, di stare dei momenti insieme per assaporarvi ancora di più la nostra terra e assaporarvi ancora di più le vostre canzoni. Grazie Giancarlo. Grazie a te carissimo, un abbraccione grande, sarai nostro ospite quando saremo in Sicilia, se avrai voglia e tempo e riusciremo a incontrarci. Se tu me lo consenti ogni tanto ti faccio uno squillino, ti dico Giancarlo dove sei? Sono a Genova e chissà che non posso venire a trovare a Genova io. Giancarlo, un abbraccio fratello, se siete in Sicilia fatemelo sapere, siamo a vostra disposizione come radio e anche a titolo personale, anche da parte del nostro editore e anche del mio fonico, che è innamoratissimo, insomma, anche della vostra cantante, no, diciamolo, grazie della vostra stima, e comunicherò questa passione alla Silvia di questa passione. Ok, grazie Giancarlo ancora, buon lavoro a voi, ciao tesoro, grazie ciao, ancora ciao. Linea ciao. Alla regia, ciao, grazie. allora, rieccoci in studio. Sono in questo momento al mio watch le 13 in punto. Siamo rigorosamente in diretta. Oggi una puntata straordinaria. Abbiamo sentito dalla viva voce del conduttore, del nuovo conduttore, in veste di conduttore quest'anno del Sanremo, cosa è successo, i pettegolezzi che ci sono stati, anche la collega della stampa che si lamentava del fatto che non ci fossero donne presenti. Abbiamo parlato di Ollus, di questa associazione benemerita che insomma con la clown terapia porta un sorriso non soltanto ai bambini dei reparti pediatrici ma anche oncologici e degli anziani, quindi geriatria. E poi un incontro importante, sebbene mediato dal telefono e quindi non visibile, non palpabile, con uno dei componenti dei Mattia Bazar, con Gianfranco Golzi che è il batterista di questo gruppo. Abbiamo tracciato la storiografia, nel bene o nel male, ma più nel bene che nel male, di questo grande gruppo. Abbiamo detto che è un gruppo internazionale che ha scritto su canzoni di successo, ci ha spiegato le motivazioni per le quali le canzoni di oggi non sono molto orecchiabili ma sono approssimative secondo me, mentre il nuovo sound che hanno impresso i Mattia Bazar ai loro ultimi lavori da una decina d'anni a questa parte, insomma, hanno tirato fuori dei brani veramente straordinari. L'appuntamento è per quest'estate, quando partiranno i tour. Speriamo veramente di averli qui in Sicilia, visto che la nostra terra, loro la definiscono la terra promessa. Insomma, ha un certo fascino la nostra Sicilia, ma vi assicuro che anche la Liguria, per chi non ci sia stato, è una bellissima terra, una bellissima regione. Detto questo, io prima di passare ai saluti devo ringraziare il Rinascimento, che si trova nel cuore del centro storico di Castelbuono, in via Sant'Anna, a pochi passi dal centro Piazza Margherita. C'è un vasto assortimento di biancherie per la casa, dalle spugne alla linea letto, dalla linea cucina agli innumerevoli accessori. Loro sono molto bravi nell'arredo a mano, quindi andate a trovare il Rinascimento proprio in prossimità di Piazza Margherita, di fronte al comune che è stato appena ristrutturato. Troverete le firme prestigiosissime Conton Joy, Epidea, Caleffi, via Roma 60, eccetera eccetera. In questo momento troverete anche gli sconti, quindi andateci tranquillamente, perché portate a casa veramente delle cose belle da vedere, ma soprattutto da indossare, come per esempio l'arredo bagno con gli accappatoi che sono stupendi. Per l'arredo culla poi, insomma, c'è da un'ampissima scelta da poter fare. La loro specialità sono i ricami a mano, quindi sapete che poi nel tempo questi acquistano una valenza economica non indifferente oltre che affettiva, con un vasto assortimento di lenzuola, servizi da tavola, centrini eccetera, e offriamo al cliente un prodotto originale e elegante e curato nei minimi dettagli. Rinascimento a Castelbuono. Poi se vi trovate a Castelbuono, beh, insomma, vi do un paio di appuntamenti importanti, due possibilità di scelta per andare a cena o a pranzo. Uno è ristorante pizzeria Vecchio Palmento in via Failla 2 a Castelbuono. Pensate, per esempio, per il 4 di febbraio organizza la seconda serata degustazione di vini con piatti tipici. In particolare sono insieme alla cantina Vecchio Palmento, quindi ci sarà una serata particolare non soltanto all'insegna del vino ma anche all'insegna dei primi piatti, dei secondi piatti, con gusto madonita. Per cui non lo scordate, il 4 di febbraio andare al Vecchio Palmento, dove troverete questa manifestazione e potete passare una serata diversa da tutte le altre. Poi se c'è freddo ancora meglio, ma oltre questo troverete il forno a legna, il camino che vi riceve già trasmette calore e gioia soltanto a vederlo, perché comunque il Vecchio Palmento è strutturato con gusto, con un po' di antico, che sa, ecco, il sapore antico non soltanto nei piatti ma anche nella forma fisica. Cioè non appena si entra si trovano le travi, si trovano le sedie fatte in un certo modo che riportano i tavoli, che riportano naturalmente a un arredo molto molto molto antico. Poi c'è questo camino che vi trasmette appunto la familiarità, come se vi trovaste nella vostra casa con i vostri amici, quindi è tutto un ambiente particolare. D'estate poi avete la possibilità di pranzare o cenare, pensate, fuori c'è un grande giardino dove avete la possibilità al fresco di gustarvi in tutta serenità i piatti che la pizzeria Vecchio Palmento, non soltanto pizzeria ma anche il ristorante Vecchio Palmento, vi mette a disposizione. Vi ricordo il 4 di febbraio questo appuntamento da non mancare. Ancora, se vi trovate invece poco più avanti del Vecchio Palmento, a pochissimi centinaia di metri, vi invito a fermarvi su un altro ristorante pizzeria che si chiama I Quattro Cannoni, perché appunto appunto è vicino alla Fontana dei Quattro Cannoli. In questo momento chi volesse partecipare può iscriversi alla scuola italiana Pizzaioli, perché loro hanno la possibilità di insegnarvi come fare le pizze anche a livello amatoriale, ma se volete diventare dei bravi pizzaioli, beh, non c'è migliore occasione. I piatti sono tipici locali, insomma trovate la carne del castrato, come potete trovare le stigliole, come potete trovare i maccheroni al sugo di funghi porcini, insomma trovate tutto quello che nelle nostre madonie di buono c'è, soprattutto la carne che è prodotta ed è con tracciabilità madonita, la verdura che anche quella è nostrana, insomma i gusti di un tempo li trovate anche ai Quattro Cannoli. Andateci a nome di Filippo Glorioso, il caffè o il digestivo o il dessert vi verrà tranquillamente offerto. Invece per chi in itinere, cioè chi sta viaggiando in questo momento, beh, e si trova alle parti di Pedrelia, non può non fermarsi ai Vecchi Sapori, perché vi auguro intanto buon appetito. Cucina tipica madonita, ristorante, pizzeria e wine bar. Pensate quante cose fa questo Vecchio Sapore, questo è il nome del ristorante in oggetto. Lo trovate dove? È a Pedrelia Soprana, ma Bivio Madonnuzza, quindi proprio lo potete intercettare con molta facilità. Vi ho fatto nelle puntate precedenti, vi ho fatto un elenco di alcuni primi piatti, di alcuni antipasti, come arrosto di tacchino marinato, come caprese con bufala o bufala stesso. Questi sono alcuni degli antipasti, i primi piatti. Oggi vi consiglio i ditalini o sminuzzo con ceci con macco di fave. Beh, con questo freddo, insomma, vorrei vedere. E già la vostra pancetta si riscalda. Poi i contorni, ma prima dei contorni, i secondi piatti. Andiamo, oggi vi consiglio il controfiletto al pepe verde e poi la tagliata ai funghi, oppure come contorni potete prendere verdure del giorno, oppure le patate al forno o il balsamico cipolla tropea all'aceto o le cipollette borrettane, insomma ce n'è per tutti i gusti. Mi raccomando, quindi andate Vecchi Sapori, Bivio Madonnuzza, lo trovate lì. Vi do il numero di cellulare per le vostre prenotazioni, 331 924 0386, e a tutti quanti voi auguro un buon appetito. Ringrazio la parte tecnica alla console e il mio fonico Dario. Ciao, puoi salutare se vuoi, insomma. Simone, comunque. Ah, Simone dice che è tutto semplice. No, Dario, mi piaceva di più Dario, chissà perché. Dai, Simone. Saluta. Vi saluto a tutti. Tra l'altro mi è venuto un certo languorino dopo questi ultimi sponsor, quindi allora, non vedo l'ora di andare a pranzo. Ah, no, non a casa a questo punto. Prendi la macchina, o vai a Castelbuono o vai a Bivio Madonnuzza. Senz'altro. Così ci riscaldiamo. Grazie ancora a Massimo. Ho detto bene questa volta? Simone? Ah, Simone. No. Ormai è un indovinello. No, è l'età che mi gioca dei brutti scherzi. Vabbè, sì, ti perdono. D'accordo, grazie Simone. Stavamo scherzando naturalmente, una vena un po' così di scherzo ci vuole. Io vi do l'appuntamento per domenica prossima alle 11.30 circa per la differita di questo programma. Ringrazio tutti quanti voi per essere stati con noi. Spero che la puntata sia stata di vostro gradimento. Se non lo fosse stato, pazienza, chiedo venia e faremo di meglio la prossima sicuramente. Un grazie di cuore agli sponsor, senza i quali non sarebbe possibile realizzare questo programma. Cos'altro dirvi? Vi voglio bene, buon weekend e se fa freddo copritevi. Ciao a tutti da Filippo Glorioso. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.